Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Se siete tra coloro che per avere una buona connessione Wi-Fi devono andare in giro col cellulare, come si faceva una volta con la bacchetta del rabdomante, beh, tenetevi forte, perché a quanto pare nelle mani giuste il Wi-Fi può fare miracoli. Un esperimento dimostrativo condotto dal Politecnico di Torino è infatti riuscito a ottenere una connessione Wi-Fi. In realtà si tratta di una tecnologia simile a quella del Wi-Fi di casa, non esattamente la stessa, ma tra dispositivi distanti 700 km. Si tratta appunto di un esperimento dimostrativo, nessuno punta a utilizzare davvero il Wi-Fi su queste distanze, ma è un esperimento che dimostra come questa tecnologia, per così dire, vecchia rispetto anche al roboante 5G, abbia ancora delle frecce al suo arco. Per farci che cosa? Lo chiediamo a Daniele Trinchero, che è direttore degli XM Labs del Politecnico di Torino ed è protagonista col suo gruppo di ricerca di questa performance. Da Record, buonasera, buonasera Trinchero. Buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori. Allora, come prima cosa mi sembra che ci debba proprio raccontare e dire qualcosa di più di questo esperimento. Intanto tra quali luoghi avete effettuato questa connessione? Allora, abbiamo scelto due luoghi che ci potevano permettere questa distanza quasi estrema e li abbiamo scelti a cavallo del mare, del nostro mare, del mare Mediterraneo. In particolare abbiamo realizzato la trasmissione tra l'isola di San Pietro, tutti la conoscono come Carloforte, a sud della Sardegna, e alcune alture sopra Tarragona, quindi in Spagna. Siamo in Spagna, esatto. È bene specificare che non abbiamo usato il wifi domestico, come già anticipato lei. Abbiamo realizzato questo collegamento usando tecnologie che normalmente vengono applicate ai sistemi Internet of Things, quindi per il trasporto di piccoli quantitativi di dati, e soprattutto abbiamo utilizzato un trucchetto da radioamatori, nel senso che abbiamo fatto rimbalzare il nostro segnale sulla troposfera. Quindi fondamentalmente non abbiamo fatto il collegamento in linea diretta tra la Sardegna e la Spagna, ma abbiamo utilizzato delle caratteristiche di propagazione stagionali che occorrono normalmente nella tarda estate, proprio per arrivare fin dall'altra parte del mare. E d'altra parte, appunto, nessuno pensa di utilizzare il Wi-Fi al posto dei cavi transoceanici, no? Quali sono invece le applicazioni del Wi-Fi pensato, chiamiamolo Wi-Fi, ma ci siamo capiti, voi utilizzate comunque dei componenti commerciali e dei componenti di fatto a basso costo, stiamo parlando di tecnologie di rocket science, ecco, da questo punto di vista. Ecco, quali sono le applicazioni alle quali state pensando per questo che continuiamo a chiamare, diciamo, Wi-Fi su lunga distanza? Innanzitutto bisogna dire una cosa: c'è una differenza enorme, che è poi quella che viene normalmente chiamata divario digitale, tra la disponibilità di servizi di comunicazione nelle aree urbane, nelle aree cittadine, e quella che invece rileviamo quotidianamente nelle aree rurali. Di conseguenza, disporre di sistemi che con bassissimi consumi energetici e soprattutto utilizzando frequenze libere, come il Wi-Fi o come i sistemi che abbiamo usato noi, riescono ad arrivare a grandi distanze, mi risolve l'inconveniente di andare a portare o rilevare servizi proprio nelle aree periferiche, quelle più remote e quelle fondamentalmente dove c'è meno interesse a realizzare rete di telecomunicazione. Esempi: l'agricoltura, ovviamente, certo, perché l'agricoltura per sua natura si sviluppa nelle aree rurali, oppure il controllo di aree che sono magari esposte a rischi dal punto di vista delle alluvioni, piuttosto, certo, che degli eventi climatici estremi, o ancora monitoraggio forestale, frane, monitoraggio geodetico, certo. Esatto. Le foreste e chi più ne ha più ne metta, tutto ciò che riguarda la disponibilità di servizi che permettano di rilevare o trasmettere dati in aree estremamente periferiche. Ecco, lei in qualche modo forse ha anticipato la risposta alla domanda che intendevo fare, cioè sul rapporto fra il 5G che sta arrivando e che nasce per risolvere una serie di problemi che voi, diciamo, indirizzate con questa vostra tecnologia. Uno di questi è consentire la trasmissione di piccoli pacchetti di dati senza occupare troppa banda, un problema che avevamo, che abbiamo tuttora col 3G e con il 4G. Ecco, è un rapporto conflittuale quello che vedete, un rapporto di complementarietà? Ma come dicevo prima, non posso prevedere realisticamente che la copertura di servizi di comunicazione possa procedere allo stesso passo, certo, nelle aree urbanizzate e in quelle rurali. Non è mai stato così. Il 5G è un'ottima tecnologia perché permette di dosare la banda, anche di dosare le frequenze in modo diversificato rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio, quindi intensificarle in zone a maggiore presenza, certo, e, certo. Rarefarle nelle zone in cui invece sono richieste meno applicazioni, ma in ogni caso rimarrà sempre il fatto che alcune applicazioni, soprattutto quelle più delicate, pensavamo prima agli incendi oppure alle frane eccetera, avvengono normalmente in zone così remote, sì, dove non è assolutamente garantita la disponibilità di una copertura capillare completa come quella che posso avere in centro a Milano, a Roma. Certo, certo. Senta Trinchero, però oggi questioni di carattere normativo non limitano l'utilizzo del Wi-Fi con le modalità che state sperimentando voi? Allora, assolutamente alcune bande di frequenza, ad esempio quella che abbiamo utilizzato noi, prevedono dei limiti normativi soprattutto per evitare che nelle stesse bande si possano realizzare delle interferenze o delle sovrapposizioni con i servizi governativi, alcuni dei quali molto importanti, ad esempio quelli militari. Certo. Noi abbiamo sviluppato questa attività proprio nell'ambito di un progetto autorizzato dal MISE e progettato proprio per valutare la presenza o, nel nostro caso, assenza di interferenze, e l'idea di portare le prestazioni così al limite, appunto fino ai 700 chilometri, è stato proprio per dimostrare l'inefficacia dal punto di vista della situazione interferenziale rispetto a quella che può essere invece la bontà della trasmissione e soprattutto la fruibilità del sistema proprio per raccogliere dati distanti. Va bene, grazie, grazie professor Trinchero. Grazie a voi, grazie per la chiamata e per la piacevole chiacchierata. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, a domani sera.